Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Immaginate dei materiali programmabili, progettati a tavolino per avere comportamenti meccanici inconsueti che in natura non esistono, come per esempio un materiale che quando viene stirato, invece che assottigliarsi, diventa più spesso. Sono i metamateriali meccanici e in realtà sono materiali normalissimi che non avrebbero nulla di eccezionale se non fosse per la particolare geometria o diciamo struttura tridimensionale con cui vengono confezionati, grazie alla quale possono fare poi cose sorprendenti. I metamateriali meccanici hanno ricevuto un grande impulso dallo sviluppo della stampa 3D proprio perché hanno delle geometrie complicate, e ora è probabile che ne riceveranno un altro, come vedremo tra poco, dall'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale. Ne parliamo con Stefano Zapperi, professore di fisica teorica della materia dell'Università di Milano, dove è anche coordinatore del Centro per la complessità e i biosistemi. Buonasera Zapperi. Buonasera. Allora, questi metamateriali meccanici, ecco, che cosa sono? Allora, come ha illustrato lei brevemente, sono degli oggetti, questi metamateriali, che sono caratterizzati da una geometria particolare, quindi le proprietà del materiale non sono tanto importanti, potrebbero essere fatti di plastica o di gomma o di addirittura di metallo, ma non è tanto importante il materiale di cui sono composti, ma la forma che assumono. Quindi immaginate una forma fatta tipicamente di celle, quindi di celle unite, di reti, di griglie, ok? E allora, ovviamente, sono degli oggetti macroscopici. Sono oggetti macroscopici. Ecco. Sì. Anche se ormai con le tecniche di miniaturizzazione, certo, e di fabbricazione nanometrica e microscopica vediamo dei materiali, dei metamateriali meccanici anche a scala micrometrica, quindi dei, certo, mini metamateriali. Però in generale il caso classico è di un oggetto macroscopico di dimensioni di qualche centimetro e così via. Potete immaginare una specie di blocco fatto da reti, cubi o celle. Sì, sì, sì, sì. Ecco, che diversa, però esibiscono delle proprietà inconsuete o che permettono di fare cose abbastanza, esatto, sorprendenti. Questo è proprio il punto, quindi le celle non sono messe a caso, ma sono messe disegnate in modo particolare, in modo da ottenere delle proprietà particolari, ad esempio proprietà meccaniche particolari, quindi resistenza per esempio alla frattura. E spesso poi questa resistenza, questa struttura non è inventata di punto in bianco, ma per esempio ci si ispira anche alla natura. Un esempio di un materiale che ha proprietà di frattura particolarmente buone sono per esempio le ossa, che, certo, se uno le va a guardare al microscopio hanno una struttura gerarchica, e quindi uno può cercare di disegnare una serie di celle che riproducono questa struttura gerarchica, da celle piccole che poi si seguono in celle grandi e così via. Ecco, ma qualche esempio di proprietà strane, no? Io parlavo del materiale che uno lo tira e lui si inspessisce. Per esempio possiamo avere metamateriali che hanno una particolare compressibilità ottimizzata, o delle proprietà elastiche particolari, sono molto elastici, molto più elastiche del materiale di partenza, certo, quindi cose di questo tipo. Quindi si cerca di migliorare quello che è il materiale di partenza tramite la struttura, tramite la geometria, tramite l'organizzazione delle celle. E poi c'è un altro filone. Altre cose interessanti sono, esatto, la questione di generare movimenti particolari, quindi andare dal materiale, dal metamateriale che riproduce il materiale, a il metamateriale che riproduce un vero e proprio meccanismo, una sorta di macchina. Facciamo un esempio semplice, una maniglia, no? Una maniglia è un semplice attuatore che noi spingiamo in una direzione e otteniamo poi il movimento del chiavistello nell'altra direzione. Allora, se pensate a come è fatta una maniglia, è fatta da tanti ingranaggi, da pezzi diversi che vengono assemblati. Ormai con il metamateriale si può creare un unico blocco stampato in 3D che ha tutte queste proprietà di movimento senza bisogno di assemblare componenti diversi, quindi un grosso vantaggio dal punto di vista della complessità. È come se fosse un unico pezzo che quando si piega, tra virgolette, tira fuori un chiavistello. Esatto, e possiamo immaginare tanti meccanismi di questo tipo. Una pinza fatta di un unico blocco con delle celle assemblate in modo che abbia il movimento della pinza. Bottoni, possiamo immaginare tantissime applicazioni di questo tipo di oggetti. Dove potrebbero andare a finire queste applicazioni? Beh, già esistono applicazioni di questo tipo nell'ingegneria in generale, ma per esempio nella robotica, avere per esempio mani meccaniche che aggrappano gli oggetti quando vengono stimolate, oppure addirittura nella moda, nei tessuti, ormai si creano per esempio, abbiamo esempi di scarpe auxetiche che hanno questa struttura che lei aveva menzionato all'inizio, in cui si stringe, invece di stringersi si allarga il materiale quando viene compresso, vengono usate per fare delle suole di scarpe, per esempio, particolari, o addirittura generare un'intera scarpa con un'unica stampa 3D. Dunque, Zapperi, voi avete appena pubblicato su Nature Communications un lavoro in cui avete utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare degli attuatori a metamateriali. Tra l'altro il lavoro è stato finanziato dal Proof of Concept Grant Meta Design, un finanziamento europeo. Allora, che cosa ci può dire in merito a questo utilizzo dell'intelligenza artificiale? Allora, fino adesso il metodo prevalente per generare questi metamateriali, per esempio anche questi attuatori con queste proprietà di movimento particolari, era semplicemente o di guardare alla natura, no? Guardare cosa fa la natura e cercare di produrla, o semplicemente, diciamo, mettersi con carta e penna e cercare di trovare dei meccanismi che funzionassero. Noi abbiamo pensato di fare meglio e di cercare di utilizzare degli algoritmi per trovare la configurazione di queste celle geometrica che fosse la più efficiente possibile, cioè che per esempio trasferisse in maniera migliore il movimento o desse una forza più grande in risposta alla forza applicata. E quindi abbiamo da una parte creato degli algoritmi che cercavano nello spazio delle possibili configurazioni e dall'altra anche utilizzato l'intelligenza artificiale in cui una rete neurale veniva addestrata su tanti esempi che avevamo generato al calcolatore per poi determinare qual era la struttura migliore. Una volta poi ottenuta questa struttura migliore la potevamo strampare in 3D e effettivamente confermare che era quella migliore, insomma più efficiente. Grazie Stefano Zapperi. Grazie a lei. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento domani sera. Buona serata a tutti voi. iRobot Roomba. Cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it. Vi ha presentato Smart City.